Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ho oggi un bel viaggetto rilassante. Non ho voglia di discorsi impegnati. Voglio stare leggero, voglio stare fresco. Non voglio pensare troppo. Sto fuggendo dai volti accigliati, dalle persone che hanno dei fardelli troppo pesanti. Mi piace cercare dei compagni di viaggio che mi raccontino cose allegre. Non voglio impegnarmi oggi. E quindi il signore che ho accanto mi sembra la persona adatta. Un po' per come è vestito, un po' per come mi guarda, un po' per quest'area un po' svagata e curiosa, che mi sembra proprio la persona giusta per starmi a fare un sonnellino mentre mi racconta l'avventura della sua vita. È una cosa che è successa una decina di anni fa, con la mia famiglia, moglie e due figli. Siamo andati in un castello che c'è, una torre con un castello che c'è a Cassano d'Adda, e stavamo visitando questa cosa quando abbiamo visto una coppia con lei seduta su una colonna nel giardino, e invece il marito, il compagno, che stava facendo delle foto in giro con una macchina abbastanza strana. Insomma, io sono abbastanza curioso, allora gli ho chiesto cosa stava facendo, e quello che stava facendo era delle foto a dei fantasmi. Ma di giorno o di notte? Era giorno? Di giorno, di giorno. Ma lui ha detto, lei cosa fa? E dice, faccio le foto ai fantasmi, così. Sì, esattamente. La cosa curiosa era, la cosa che mi aveva incuriosito era la macchina fotografica, perché era molto grossa, gialla, ed era una macchina che gli aveva prestato l'Università di Milano, mi sembra. Cioè una macchina speciale per fotografare i fantasmi? Sì, mi ha spiegato al tempo che cosa aveva di particolare, ma adesso assolutamente... Sarà stata infrarossi, queste cose qua? Sì, sì, penso sì, campi magnetici o qualcosa del genere. Sarà la macchina a fotografare campi magnetici. Lui faceva queste foto? Lui faceva queste foto perché poi ci siamo messi a chiacchierare. La sua compagna era stata chiamata da questa presenza, che era di una cameriera che si è buttata da lì perché per la vergogna di essere rimasta incinta dal principe che abitava in quel castello. Io sono... Ma quindi cercava il fantasma della povera serva ingravidata dal principe. Esatto, sì. Io sono abbastanza scettico su queste cose, mi incuriosiscono, però non è che ci veda tantissimo. La cosa impressionante erano le foto che mi ha fatto vedere appena scattate, che effettivamente mostravano un'ombra del tutto con fattezze umane al di là del parapetto della torre, e quindi insomma credo che i bambini, cioè dalla foto si vedeva proprio la silhouette della povera cameriera. Assolutamente sì, ma la cosa poi particolare è che poi ci siamo fermati a chiacchierare con la signora, che a quanto pare era una delle più grandi medium, anzi è, spero che no. Beh, il medium serve a evocare il fantasma, poi lui fa le foto. Il medium lo chiama e lui lo fotografa. Sì, sì, sì, in genere sì, anch'io. Ed era una famosissima appunto medium, che mentre stavamo parlando a un certo punto si interrompe, guarda mio figlio piccolo, che all'epoca aveva un paio d'anni, e mi dice, ma questo qua è un bambino indaco. Io non sapevo assolutamente nulla, bambino indaco, informare, sì. E so che i bambini indaco sono persone particolari. Vengono da un altro pianeta, sì, tutte queste cose. Sì, una cosa del genere. Poi mi analizza anche la figlia più grande e poi... Anche lei indaca anche la bambina? No. Solo il maschio. Era un po', come dire, è stata un po' superficiale su analisi di mia figlia, che è una persona abbastanza particolare. Che cosa ha detto sua figlia? No, è stata molto vaga, come se non le interessasse. Eh beh, se non è indaco, che gli importa? Infatti, la cosa particolare è che poi ha detto, e poi la terza sarà il sole in terra. E che è successo invece? La terza è arrivata però 6 anni dopo, quindi... E era il sole? Diciamo che è molto, molto solare, molto comunicativa. Cioè, emette luce, cosa fa? Come carattere, i padri vedono sempre i figli solari. Ma parliamo del bambino indaco, poi che ha fatto del figlio indaco? Allora, secondo lei che poteva fare questo prodigioso bambino? Vedeva la gente morta, cosa poteva fare? Ma mio figlio sembra essere un bambino abbastanza normale. Non vede gente morta suo figlio? Però mi ha dato delle caratteristiche di questo bambino, che all'epoca aveva 2 anni, che poi si sono rivelate effettivamente abbastanza attinenti. Cioè, ad esempio? Per esempio, che avrebbe, secondo lei, avrebbe lavorato tantissimo con i bambini, che sarebbe stata una persona semplice, ma molto, come dire, empatica. E cosa fa suo figlio invece? Mio figlio adesso fa 13 anni. Beh, sta con i bambini, sono i suoi compagni di classe. Ha una particolare predisposizione per stare con intrattenere bambini anche più piccoli, cioè si vede proprio che è portato. A me gli piace giocare con bambini più piccoli. Vabbè, questo adesso è un po' condizionato da quello che aveva detto la medium. Ma non penso che è un bambino paziente, ecco così. Vabbè, quindi finito così la sua esperienza. È finito così, devo dire che insomma noi siamo rimasti abbastanza colpiti, ripeto, una famiglia di scettici, atei. Da tutta una serie di cose che... Quindi vi ha condizionato, in qualche maniera ha fatto riflettere. Un po' vedi la foto col fantasma della cameriera morta, un po' il bambino indaco che fa una previsione sul bambino, sì, può capitare, certo, uno rimane un po' impressionato. Ma guarda, la cosa che ha colpito me è che io tutto questo mondo l'ho sempre visto molto legato a una parte remunerativa, nel senso ti faccio vedere il tuo caro morto. Che si fanno pagare? In questo caso erano elargite gratuitamente. Eh sì, ma lei era già pagata da chi faceva le foto. Era un gioco. Era già in trasferta di lavoro, capito? Quindi potrà anche permettersi di fare una diagnosi, dare un bambino indaco così. Poi alla fine non è però che fatto. Avrebbe potuto anche non farlo. Vabbè, ma cosa ci ha perso? Gli ha dato un motivo di riflessione su suo figlio che non avrebbe mai avuto. E anche sul terzo, il bambino sole che è nato e lo sta a guardare tutti i giorni, quindi noi ci suggestioniamo facilmente, poi evidentemente io di rado però questa volta non è che mi abbia cambiato la mia visione di quel mondo, però sono rimasto pensando alla povera bambina che non è niente, uno è il sole, uno è indaco, lei poverina è lì normale, è come in una famiglia di supereroi, l'unica che non c'è superpotere. Ma ha trovato la sua dimensione lo stesso. Va bene, grazie, buon viaggio, è stato divertente. Arrivederci, alla prossima. You're my DNC, you're the oh. si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ahimè, la mia voglia di leggerezza è stata brutalmente frustrata. Incontro la ragazza con la chitarra senza chitarra. La ragazza con la chitarra è un personaggio che mi ha seguito molte volte nei miei viaggi precedenti. Era una fanciulla che amava strimpellare lungo il suo viaggiare in treno e quindi quando cantava non parlava e quindi era una meravigliosa compagna di viaggio. Quando ella si presenta senza chitarra, ahimè, parla e pensa. E qui cominciano i dolori. Ti vedo alterata, come mai? Sì, sono stata colpita. Nel tuo intimo? Nel mio intimo, sì. Perché? Perché penso che... Dillo. Uno c'ha tante cose in testa, poi ne tiri fuori una. Ma no, lascia stare, ma che cosa dici? Ti succede spesso? Hanno sottovalutato un tuo lecito desiderio di esprimere? Sì, perché hai presente quando uno dice, oddio, ho fatto un capolavoro. E cos'era? Guarda che bello. Cos'era? Guarda, io faccio sempre video delle vacanze. Vabbè, tutti faccio li fanno. No, non è vero che li fanno tutti. No, non c'è fammi niente vedere di male. Chi fa i video delle vacanze. Tutti. Io li faccio. Le mamme, no. I bambini, le papà. No, sì, quelli già prefatti che... No, io faccio i video delle vacanze. Ah, con intento artistico. Io compongo, fai. Metto la musica, tutto quanto. Poi me li riguardo la notte prima di andare a dormire. Ah, che brava che sei, guarda che brava che sei. Ma in cui raffiguri te stessa o soltanto? No, i passaggi, luoghi, momenti significativi, forse... Per me basta, però poi li faccio vedere. Ma dove li metti? Ecco, poi? Adesso stavo dicendo, le faccio Instagram. Vedere alle mie amiche e mi dicono che sono belli. Cioè, l'amica, cioè, l'amica mica ti dice che fanno schifo. No. Però, no. E però, obiettivamente, finora erano carini. Per le amiche, ok. Me l'hai fatto vedere a me, ti ho detto che faceva un po' schifo. Ma che c'è di strano? Questo ti offende? Certo che mi offende, perché per me è una sensibilità. Per me la musica con l'immagine è tutto calcolato e c'è tutto al momento giusto. Se tu invece mi dici, ah, che cos'è? Sembra lo spot del McDonald's. Ma magari, però... Vabbè, non ti arrabbiare. Ti ho detto, sì. Devi studiare un po' il linguaggio, quello del video. Ti apprezzo quando suoni la chitarra per i treni. Mi hai fatto vedere il video, mi veniva da ridere. Solo questo. È una forma embrionale della tua espressione artistica. Ti fa arrabbiare? Mi ha fatto arrabbiare, sì. Ma le amiche, perché... non ti dico mai la verità. Come che se... ti devono dire le amiche? Certo che mi hanno detto, ah, che bello, ti mando anche le mie foto, così me lo fai anche a me. Ma poveretta, sai che da che desolazione e di solitudine vengono? No, non è... Poracce. Non è vero, perché io so scegliere la musica giusta e tutto quanto. È presente i trailer cinematografici? Sì. Quando li mandano in onda. Ma sai quanto costa un trailer cinematografico? Più di un film a volte. Sì, ok, bellissimo. Però io, quando li mandano, mettono magari quella canzone. Io, ancora prima che uscisse il film, ho pensato, quella sarebbe la canzone giusta da metterci. Vabbè. E la fanno. Sì, come il ciabattino che dice al re, c'ha le scarpe brutte. Va bene, ho capito. Bene, allora oggi, su questo treno, forse mi sto rendendo conto che tutto che pensavo fosse eccellente nella mia testa, in realtà è come un bambino che fa A, B, C. Vabbè, per un video schifoso fatto col telefonino delle vacanze, ma dai, metti il tuo amore proprio in altre cose. Questa è la cosa migliore. C'è un vicino qua che mi dà fastidio. C'è un signore che guarda e ride. Vabbè, certo. Possiamo cambiare posto? Stai facendo spettacolo? Stai facendo. No, cambiamo posto, perché c'è la gente che sta là, tipo quelli con il bastone e il giornale aperto, che sta là e ride. E ride, ah, signorina. Il tuo video fa ridere. Sapeste quante ne ho viste io? Ho visto anche quelle come lei, che fine fanno? Che fine fanno? Non lo so, sicuramente non la fine insieme a lui col bastone. Vabbè, che discorso, c'ha 50 anni più di te, lui muore prima. C'ha 50 anni più di me, ha detto bene. A meno che tu non fai una fine tragica, finisci sotto i binari del treno. Non lo so, però tu prima mi hai detto, non bisogna cercare l'equilibrio. No, ma se vuoi fare l'artista, no, cerchi l'equilibrio, sei pazza. Tu hai detto, c'ho un elenco di cose che voglio fare nella vita. E ti ho detto, comincia, fai l'elenco in ordine alfabetico e comincia. Da che lettera? Beh, è quella che vuoi te. No, di la lettera che hai detto prima. Avevo detto la P, ma una caso. Vabbè. Patente. L'ho patente. Fatto. Poesia. Cambiamo lettera. Poesia. Poesia, le ho fatte, ma non le farò mai leggere né a te né al signore col bastone che cambia sta qua lettera. Avanti. Perché mi direbbe: questa sembra la bambina che ha scritto la sua prima cottarella. Eh sì, un pochino da questa impressione. No, ho vinto anche un premio. Che premio era? Non ve lo dirò. Un premio parrocchiale? Vi lascio, sì, con il prete. Beh, No, vi lascerò immaginare. Per vi lascerò immaginare. Per la poesia, per cosa l'hai vinto? Per un racconto. E cosa racconto? Ecco, sintetizzami la trama, interessante. Allora, era per la giornata mondiale della pace. E bisognava scrivere questo racconto, e io l'ho scritto e ho vinto. Cos'è? Qual era il focus? Spiegami. Di una bambina arrabbiata che un po' mi ricorda me in questo momento. Come la piccola che tornava a casa e si voleva ribellare a tutto, all'anarchia della famiglia, dei genitori, dei compagni che la prendevano in giro. Perché di tutto. La prendevano in giro? E allora, perché la prendevano in giro? La prendevano in giro perché tu la mattina ti guardi allo specchio, esci, non importa quanti anni hai, e pensi di stare a posto. Poi appena svolti l'angolo, quindi, un disastro. Quella bambina eri tu. Può darsi, mi rendo conto. Vabbè, che forse si arrabbia, torna a casa e ammazza papà e la mamma. No, ammazza papà e la mamma, però guarda la televisione, cioè i genitori sempre con questo volume della televisione acceso quando sordi, uno mangia. Sono sordi, sono vecchi. No, sono genitori come fanno tutti, con la televisione a mille. E lei vede tutte queste scene di guerra e di cosa, a un certo punto si alza, fa urla, fa cascare bicchieri e se ne va via. Se ne va in camera sua e si mette a fissare il soffitto che è bianco e fa un sogno che l'aiuterà a capire alcune cose. E si addormenta al pomeriggio così, fa il sonnellino. No, è sera, però nella sua testa è molto soddisfatta perché è andata a dormire senza essersi fatta la doccia. E la mamma sa che così. Ma quanti è anni arrabbiata. Ha questa bambina? 18. Beh, però è una bambina della mia generazione, perché se penso alle bambine di 18 anni adesso, la mamma ti vede ancora, hanno tipo 25 anni. La mamma ancora ti dice: hai fatto la doccia, ti sei lavata. Non ho 18 anni. No, vabbè, devo dire se sei tu la bambina. Ti dice: cambia le mutande. A 17 anni, se la figlia torna e fa quella scenata al tavolo, fanno: ma che sei matta? Adesso la mamma anzi, ti dice ancora: a cambiare. Ti dice ancora quando esci: cambia le mutande, se hai un incidente vai all'ospedale e poi fa brutta figura. No, quello ci penso io molto spesso, lo sai? Anche a fare la ceretta. Veramente. Dico: Dio, mi devo fare la ceretta. Perché se viene un qualcosa, incidente all'ospedale. Penso sempre in negativo, ovviamente. Non ma penso che devo fare cosa? La ceretta per vabbè. Per l'ospedale. La suora, quando ti taglia i vestiti, tu ma tutta coperta di sangue, iperfratturata, saccò giù alle però mutande. Però forse è meglio parlare della lettera P. Vabbè, parliamo andiamo. Della lettera P. Vabbè, questo è il racconto che hai vinto. Sei rimasta frustrata perché io ti ho preso in giro per il tuo video per le vacanze, che è bellissimo, va bene? Guarda, l'ho fatto anche per te un video. Take it and I run away. informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Dimmi come sono andate le vacanze. Dove sei stata in vacanza? Sono stata in Grecia. Bellissima la Grecia. Sì, molto bella. È originale, una scelta che non fa nessuno. Nessuno, soprattutto il periodo sicuramente c'ero solo io, perché era fine settembre. Ah, adesso in bassa stagione. Sì, esatto. Però due giorni fa sono tornata. Il mare c'era, si poteva fare. Il mare c'era da mangiare, c'erano i posti, pescatori, le spiagge infinite. Ma lo sai che la cosa bella è che quando tu torni all'aeroporto, già le persone che prendono l'aereo per tornare a Roma già ti fanno cascare le braccia. Vabbè, questo succede in tutte le stagioni. No, ma ti guardi intorno anche i ragazzi, soprattutto i ragazzi. Perché non sei rimasta in Grecia allora? Magari là i miei video li apprezzava. Cominciava il periodo rigido. Ah, che bella, brava. Vabbè, invece che hai fatto? Con chi sei andata? Con l'amica, quella tua del video? Sono andata con un'amica, sì. Due donne, fine. Che ne so, specifica, che ne so. No, vabbè, no, dimmi, va bene, due donne oppure tre, oppure una, mezza. Sei polemica. Qual è il numero perfetto oggi? Ma che ne so, 50, che 50. E che avete fatto? Ho preso il sole, state andate. Ma preso il sole, abbiamo mangiato. Abbiamo pesce a buon prezzo. Siamo andati, ci hanno dei greci. Adesso comincerai, guarda. Ci hanno invitato, ci hanno invitato su in terrazza a mangiare, fare un barbecue alle 3 di notte. E a mangiare la moussaka. A mangiare la moussaka. La moussaka si dice. Vabbè, moussaka. E c'è anche un'altra bella parola che si dice malaka. Che sì. È quello che penso adesso io, ma non ti dirò la traduzione. E vabbè, sono stata bene, sì. Poi che hai fatto? Hai bevuto? Ho fatto tante cose che non bevuto? C'erano nel video. Forse vabbè, se le mettevo ti piaceva. Guarda che mi importa a me. Hai avuto una bella vacanza? Sì, molto bella, molto bella. Hai conosciuto persone nuove? Sì, certo. Hai stretto amicizia? Ho stretto amicizia. Hai stretto nuovi amori? Ho stretto nuovi amori. Ah, te capito, comincia da lì, la novità. Hai trovato un fidanzato in Grecia? No, in realtà è successo. È un greco? No, sì, è un greco. Sì. In Grecia ci sono i greci. Cioè. Sì, un greco, l'ultima notte, ho stretto amicizia. Come la gita scolastica, ti metti con la ragazzina e ti piace. Ecco, anche questa cosa, quel signore con il bastone. Prima gli stavo raccontando, la mia ha detto la stessa cosa. A me succedeva a 14 anni, in vacanza, l'ultimo giorno, finalmente quella che avevi spasimato tutta... Porca miseria, ma allora vengo da un altro mondo. Vengo da un altro mondo. Succede a tutti. Pensavo fosse più romantico così che... All'ultimo giorno vi siete messi insieme. Sì. E poi? Ma quando? La sera prima che tu partissi, già le valigie fatte. Dopo 3 ore dovevo partire. Quindi ho aspettato proprio in articolo mortis. Esatto, e sono anche scappata. E si poteva lui pronunciare un po' prima? No, non si pronuncia, perché in quello sono tutti uguali, non si pronunciano. Aspettano che tu fai aspettano, poi ti mandano qualche segnale, no? Quando tu li salti addosso, diciamo. Quando tu li salti addosso. Non avevo capito. Loro, no, quando tu vai là vicino, allora ti sanno, sì, allora. Però è andato bene. Vabbè, non sei contenta, scusa. Sì, sei tu che però scegli. Non si vive di ricordi. Ma sei di tu ricordi. Che scegli, non è meglio. Ah, no, certo, sì, no, questo è vero. Potevi saltargli addosso prima. Questo è vero, infatti ero indecisa, poi ho scelto uno. Ma pensa che noia se uno ti salta addosso e tu non vuoi. No, per carità, oddio, è successo anche con lui. Sono scappata, poi ci ho ripensato. Ma la mia amica successo? Mi fa quando la sera sempre. Ma tutto in 3 ore? Tutto in 3 ore, bravo. Cioè, la mia amica mi fa. Chi ha cominciato? Sei matta, prima? Torna. Chi ha cominciato prima? Lui? No, perché io sono andata a portargli da mangiare perché non era salito. Ma quindi facevi anche la, diciamo, l'ancella? Esatto, l'ancella. E lui sta lì tranquillo come stava un pascià. Sta lì tranquillo, mi ha accolta. Mi ha accolta, la moussaka, sì. Gli porti. La moussaka, la pita con tutte le robe dentro. E poi e lui cosa dov'era? Adagiato nel suo giacino. Fammi finire. E poi sono scappata perché lui si era approcciato. In che senso? E io ho detto no. Ma come? Se mi era saltato addosso, io ho detto no, subito. Sei matto. Sì, però pensa che gentiluomo, lo sai cosa ha fatto? Ci hai messo un sacco di peperone nella moussaka. Lo sai cosa ha fatto? È andato nel posto dove stavamo, che era un bar molto bello, era già notte. Questo è avvenuto in un bar? È andato lì. Dove è avvenuto? In un bar? Sì! E beh, in un bar, lui che approccio può fare in un bar davanti alla gente? Ma non c'era più niente, perché era suo il bar. Ah, il barista, Ah, il barista era suo, il bar, vabbè, la gestione il padrone sua. Del bar, il sì. gestore del bar, il padrone sì. del bar. Tu sei andato al bar chiuso, gli hai portato da mangiare. E un barista sì. che già era pieno di roba da mangiare, so, avendo un bar, c'è bisogno no, di roba. Vabbè, lascia stare. Oh, un gesto carino. Ci ha provato e si è scappata, fuggita subito. Non sapevo che c'eri anche te. Fuggita? Sono fuggita, ma lui mi fa: aspetta, guarda, infilo le chiavi nella porta, la chiudo. E se te vuoi andare via in qualsiasi momento, sai che puoi aprire la porta in qualsiasi momento. È tutta sta sceneggiata per dire che, scusa, fammi capire, per dire che sentiti libera di fare quello che no, perché, vuoi. Beh, non c'è bisogno di dirlo. Non c'è bisogno di dirlo. Beh, forse sì. Infatti, ora che ci penso, sta cosa. Ma in quel momento era un gesto molto. Chiudo la porta con la chiave. Se... Ma scusa, ma va da sé che uno può uscire quando vuole. Scusa, che è una galera. Perché lui mi stava saltando addosso, io sentiva che io ero un po' intimidita, allora mi fa: guarda che può andare via in qualsiasi momento. Vabbè, questa fatta questa concessione tu sei andata. Sono scappata. Ciao, ho aperto. Dove sta la chiave? Sta là. Ciao. Ma perché aveva chiuso a chiave la porta? Comunque non è. Ma aveva chiuso a chiave la porta? Sì, ma la chiave era infilata là. Ma perché chiuso la porta a chiave? Perché almeno la gente non entrava per vedere se il bar era aperto. Scusa, okay. E tu sei andata via. Come e se poi questo dopo... significato fosse. Poi la mia amica, devo ringraziare, la mia amica mi ha detto: sei matta? È così che si fa in vacanza. Torna, vai da lui, non c'è nessuno, che ti frega. Mancavano due domani ore, parti, due ore 20 tra due ore partiamo, vai, buttati. E io ho detto no, vado a dormire. Sono uscita, ho detto va bene, sai che ti dico, ci vado. Hai bussato e gli hai detto sono tornata. Sì. E lui che ha detto, Kalos. Lui ha detto, Ela. E quindi che è successo? Ela, calispera. E quindi niente. Era ancora lì, diciamo, pronto. Era ancora lì, sì. Nel poverino. Pieno del suo desiderio. Sì, però è stato molto bello. E quanto è durato, scusa? È stato molto bello. 20 minuti ancora c'era. È stato molto bello. Vabbè. Poi dopo vi siete salutati. E poi ci sono. Sì, poi io sono stata un po' tipo uomo, un po' stronza, perché. Ti sei sentita sporca alla fine dentro. Ho detto. No, che c'entra? Ti pare? Però alla fine gli ho fatto: vabbè, ciao, devo andare. Lui: ma non vuoi restare, non vuoi bere qualcosa? No, ciao. Vuoi bere qualcosa dopo? Prima si beve qualcosa. No, avevo già bevuto. Ah, ero ubriaca quindi? No, non ero ubriaca. Quindi c'è stato questo atto d'amore e tu te ne sei andata? Sì. Ciao, sono andata e siamo partite con notte in bianco. E lui ti ha mandato messaggini? No, perché non ci siamo scambiati niente. Quindi una botta via, la cosa migliore per lui. Per me. Cotta e mangiata. Per me anche. Vabbè, detto fatto. Potevi farla. Di solito non pensavo fosse possibile. Perché non è possibile? Fa un sacco perché di gente. Perché un sacco di gente, io no. Lui dicevo, sembrava, pensavo. Cioè, mi andare... si è aperto un mondo. Si è aperto anche un mondo, si è aperto un po' tanto, tutto ti si è aperto. Scusa, mi ci invita a nozze. Ti ci invita a nozze. In questo qual è la fattispecie singolare? Nessuna. Potevi farlo prima. Potevo non farlo per niente. Vabbè, manco ci stiamo a raccontare. Siamo pari? Sì, vabbè. Va bene? Perfetto, adesso? E adesso questo. Basta, adesso andiamo avanti su sto treno e basta. Vediamo, che cosa è, chi era quella ragazza? Che guardi le altre ragazze mentre parli con una ragazza? Ma non si guardando, fa. Ma te fai guardare? Sì, hai fatto pure con la lingua la Fantozzi. Sì, non si fa così. Ma no, c'avevo. Sì, no, l'hai fatto. T'ho visto. Senti, adesso basta, perché mi state mettendo un'angoscia. Vabbè, hai raccontato sta storiella di vacanze. La tua amica gli ha raccontato. Che ti ha detto l'amica quando sei tornata? L'amica mi ha detto. Pregna di umori erotici. Cosa l'amica mi ha detto: è la prima volta che ti vedo che non hai dormito, perché io di solito sono fissata che devo dormire, che non hai dormito. E sorridi. Ridevi come un ebete. Ridevo della serie. Non sono per niente stanca. Ma tutto questo, ti rendi conto che è avvenuto nell'arco di 20 minuti, 30 minuti? Ma tu una volta hai detto che sono questi gesti di vero romanticismo passionale, certo. Non sono i grandi concetti. Ma mi sto facendo la morale. Sono contento. Potevi pensarci anche prima, perché hai aspettato le ultime due ore. Per me è molto più poetico così che non stare lì. Ma magari ti ha dato gusto, lo rifacevi due volte, scusa. Ma c'ha ragione. Questa era la cosa pratica. Quella ha ragione. Quella vabbè, ragione. Bocca al lupo, diventa. Questo ti cambierà la vita adesso? Ti comporterai diversamente? Beh, può darsi di sì. Sì, senz'altro. Sì. Finalmente sì. Hai capito che non muore, che non è che si apre il cielo. Bravo. Esce l'angioletto e ti fulmina. No, questo è vero. Ti do ragione su questa piccola cosa. C'è ragione. Va bene. Non c'è nulla, non è che hai delle mutazioni corporee, non è che fra 9 mesi nasce un bambino, non succede niente. No. Questo non si sa. No, perché nemmeno hai preso precauzioni. No. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Buon viaggio. Ciao. I signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Mi incuriosisce il signore a mio fianco perché ha qualcosa di antico nel suo sguardo, nel sembiante, nel modo di vestirsi. Sembra quasi il residuo di epoche passate. Sembra un non rassegnato. Sarà un po' per il capello non perfettamente a posto, sarà un po' per l'abito stazionato, sarà per la camicia quadri, sarà per le scarpe da montagna che si mettono sul far del treno quando uno poi magari scende una stazione cittadina, sarà per i pantaloni di velluto, sarà per il giornale stazionato. Insomma, voglio capire da dove viene. Il 7 dicembre 77, in una manifestazione c'era la prima della Scala, e allora si facevano queste manifestazioni di protesta e io partecipavo in questi gruppi, ero nei servizi d'ordine come tanti giovani in quegli anni, e dovevamo bloccare la città praticamente, fare casino. È successo che c'è stato uno scontro tra via Carducci e Corso Magenta con la Celere, quegli anni lì noi andavamo in piazza con le Molotov, tutte quelle cose lì. C'è stato uno scontro violento, in pratica è successo un po' il casino, gente che cominciava a cadere, compagni che cadevano così, ha preso fuoco tutto, io sono caduto anch'io, ero tutto in fiamme, avevo un impermeabile. Cioè la sua stessa Molotov l'è scoppiata in mano? Sì, praticamente inciampando, dei compagni sono caduti con le Molotov, ho cominciato a prendere fuoco tutto. Cioè autocombustione, vi siete dati fuoco da soli? Sì, in pratica sì, diciamo così. Poi c'è stato il panico completo perché arrivavano i candelotti, gente che cadeva. Anch'io sono inciampato. In piena battaglia, fuoco. Insomma, una battaglia vera e propria. Sì, molto violenta, è stata, non so se si ricorda proprio. Beh, sì, erano anni che è abbastanza frequente. Sì, 7 dicembre del 77, la prima della Scala, è stato un macello, veramente. Ah, questa fu epica, certo, naturalmente. Sì. E quindi lei è rimasto incendiato per terra, che è successo? Mi sono alzato, ho fatto qualche passo per scappare perché non sapevo cosa fare. Ma continuava a prendere fuoco? Cioè aveva ancora fiamme addosso oppure no? Sì, sì, sì, ero tutto in fiamme. Ah, continuava a essere incendiato, sì. Certo, certo. Poi erano anni in cui tutti i vestiti erano sintetici, quindi prendevano fuoco bene. Sì, sa, poi io ho fatto la stupidata di andare in manifestazione con l'impermeabile, perché poi l'impermeabile è un po' lungo, è un po', insomma, di solito si mettevano i giubbotti, quelle robe lì. Con l'impermeabile, certo, è un po' imbarazzante. Poi a un certo momento ho sentito una mano e una voce che non mi ricordo bene, mi sembrava femminile, però non sono sicuro, che mi ha detto levalo, levalo, levalo, e me l'ha strappato violentemente, no? Come per dire stai bruciando tutto, levatelo. Però io non ci avevo fatto caso, non avevo realizzato. E niente, poi ho iniziato a correre, vedevo i compagni che correvano, gli sono andato dietro, siamo scappati. Poi quando eravamo, diciamo, in salvo in una via laterale, ci siamo fermati tutti, ci siamo guardati e un compagno mi ha detto madonna, ma sei tutto mezzo bruciacchiato, cos'è? E io non ho sentito niente, quello è il bello, assolutamente niente, perché il fuoco non dà dolore subito. Cioè dopo un po' si sentono le ustioni. Sì, e dopo mi sono guardato, mi hanno visto tutti i jeans bruciati, l'impermeabile non ce l'avevo più, avevo perso una scarpa, boh, non so come ho fatto, e tutti i jeans bruciati. Allora c'era lì un compagno che ci conoscevamo, mi fa vieni a casa mia che ti do un'occhiata. Siamo andati a casa sua, ho tolto i jeans e avevo tutte le due cosce, delle gambe bruciate. E allora ti è andata bene, poteva prendere fuoco le palle, era anche peggio. Ah, sì, sì. Ha rischiato veramente la castrazione ignifuga. Sì, sì, sì, sì. È andata proprio bene. No, tra l'altro mi è andata proprio bene, perché se quella persona lì non mi levava l'impermeabile, tra l'altro io avevo anche i capelli lunghi, no? Beh, comunque ti sei scavata con delle ustioni alle gambe. Ustioni alle gambe, sì, mi sono fatto 40 giorni in ospedale, mi hanno fatto la chirurgia plastica. Ah, beh, una cosa seria. Sì, erano ustioni gravi, eh. Comunque poi quel giorno lì, quel compagno lì mi ha guarito, mi ha medicato un po' lui con le patate, no? Sai che in quegli anni... Sì, mettevano le patate, sì. Ma oddio, con le ustioni gravi, e voglia, fa le patate fritte. Sì, ma però non sapevamo che erano così gravi. Lui giustamente ha preso delle patate a fette e me le ha messe su, perché dicono che le patate sulle ferite fanno bene. E niente, però il giorno dopo chiaramente è iniziato il dolore e poi si formano le sacche di liquido, no? Dopo le ustioni. Sì, le vesciche, terribile. Le vesciche, e niente, sono corso al pronto soccorso e mi hanno ricoverato subito. È andata bene anche lì, perché c'erano un sacco di compagni bruciati, diciamo, no? E c'era la polizia che interrogava tutti. E certo, quegli ustionati vuol dire, era prova che erano una manifestazione, quindi. Sì, erano tutti ustionati, ci hanno messo proprio nel reparto ustionati. E la polizia mi ha interrogato, però mi è andata bene anche lì che non mi hanno fermato, perché io sono arrivato il giorno dopo e ho detto, no, io non c'entro niente con la manifestazione, mi sono bruciato per... Vabbè, loro ridevano, però vabbè. Però non avevano le prove, diciamo. Ecco. Quindi com'è andata a finire la cosa? Senti, non mi hanno imputato, gli altri invece sono andati a processo. E poi questa donna misteriosa che gli ha fatto togliere l'impermeabile, ha mai saputo chi fosse? No, dopo, vabbè, io sono stato 40 giorni in ospedale, poi sono andato fuori, poi vabbè, basta, dopo il 77 è finita un po' tutta. Beh, oddio, poi anche, secondo me, il segnale è stato potente, quindi ha pensato che fosse meglio... Sì, salvarsi la pelle, non valeva molto. Sì, ma diciamo, poi sai il 77 è stato proprio la fine, diciamo, dei circoli giovanili, di quelle cose. Beh, diciamo, qualcuno ha fatto scelte estreme, gli altri sono ritornati alla vita normale. Sì, certo. Buona giornata, buon viaggio, grazie. Grazie, arrivederci.